Da molti mesi le famiglie, basi d'appoggio zapatista, che vivono nelle comunità appartenenti al municipio di Sinancantan, nella zona Altos de Chiapas, a pochi chilometri da San Cristóbal, soffrono pressioni e minacce da parte di simpatizzanti del Partito della Rivoluzione Democratica. Infatti, in molte comunità è stata soppressa l'erogazione dell'acqua a tutte le famiglie identificate come zapatiste per il solo fatto di essere in resistenza e dunque, secondo il gruppo opposto, di non meritare nessun servizio gestito dal governo. Il problema nasce chiaramente dal fatto che l'acqua è una risorsa fondamentale e nessuno può vivere senza. Sabato 10 aprile, anniversario della morte di Emiliano Zapata, le basi d'appoggio zapatiste di questa zona hanno deciso di commemorare l'avvenimento con una grande marcia che è partita dal Caracol Corazón Centrico dello Zapatistas di Oventic, una grande marcia composta da circa 4.000 persone che con 150 carri si sono recati a portare preziose cisterne d'acqua nelle comunità private di questo servizio. La marcia arrivata nella comunità di Jechbo ha tenuto un piccolo atto politico nella piccola piazza centrale ed ha consegnato la preziosa cisterna. Al momento di riprendere i propri carri per abbandonare la comunità, le basi d'appoggio zapatiste si sono trovate di fronte ad un'alta barricata di pietre alzata da un gruppo di paramilitari armati. Dopo alcuni momenti di tensione, i paramilitari hanno iniziato ad aggredire la marcia zapatista a sassate, poi anche a colpi di fucile. Il bilancio della violenta aggressione è di almeno 30 feriti secondo una denuncia del Caracol di Oventic. Due feriti sono in fin di vita per i colpi di arma da fuoco e si trovano ricoverati negli ospedali di San Cristóbal e di Tuxtla Gutiérrez. Per tutta la notte poi sono proseguite le minacce alle famiglie zapatiste di questa comunità. È stata distrutta un negozio cooperativo e le cisterne d'acqua che erano state portate dalla marcia. Il giorno dopo, la domenica di Pasqua, una carovana di osservazione composta da rappresentanti della società civile nazionale ed internazionale e da organizzazioni di difesa dei diritti umani si è recata nelle comunità di Jechbo, teatro dell'aggressione di Elamboal e Elambobajo, verificando che tutte le famiglie zapatiste di queste comunità, in totale 125, sono dovute fuggire per timore di ulteriori aggressioni e si trovano sfollate nelle montagne. Sono state rese pubbliche ieri le dichiarazioni del Presidente della Commissione Nazionale dei Diritti Umani, secondo il quale tutto questo avviene perché il governo federale si nega a riannodare il dialogo con le ZLN, nel caso Chiapaneco, e più in generale a riconoscere costituzionalmente i diritti dei 12 milioni di indigeni che vivono sul territorio messicano. In una conferenza stampa ieri le organizzazioni di difesa dei diritti umani hanno denunciato la realtà delle famiglie sfollate che contraddice le grottesche dichiarazioni delle autorità statali e del municipio di Sinancantan, che dicono che in questa zona tutto procede tranquillo con le normali attività lavorative e di conclusione della settimana santa, anche se in realtà hanno inviato almeno 500 uomini della polizia nelle comunità vicine a Jechbo, teatro della violenta aggressione. Di fatto ciò che è accaduto rappresenta una delle molte facce della strategia di controinsurgenza messa in atto dal governo federale messicano per indebolire la resistenza delle comunità zapatiste, ovvero fomentare i conflitti interni alle comunità, appoggiando le organizzazioni di gruppi che potenzialmente possano opporsi agli zapatisti ed incoraggiandoli ad aggressioni violente. Ciò che vediamo in atto nelle comunità indigene chiapaneche non è altro che la famigerata strategia di guerra di bassa intensità contro migliaia di famiglie indigene colpevoli di essere basi d'appoggio zapatiste e di stare mettendo in pratica il diritto alla libera autodeterminazione e all'autonomia che continua ad essere loro negato dalla legge. Giovanna Gasparello, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Messico.